Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia, biglia senza pista, un pescatore sprovvisto della sua migliore esca, Don Giovanni senza una tresca, io senza te, uno scettro senza re. Buongiorno a voi e benvenuti. Mi viene da sorridere perché ci sono delle mattine, capiterà anche a voi, in cui andiamo in bagno, ci guardiamo davanti allo specchio, non guardiamo rughe, faccia, come siamo, ma ci sono i capelli che parlano da soli, in piedi, tutti arruffati, sembriamo dei mostri da palude. Io non lo so che cosa si fa. Allora, dato che poi dobbiamo buttarci fuori di casa, non è che sia tempo di domare la chioma, però dobbiamo in qualche modo recuperare un aspetto presentabile, ho chiesto aiuto ad una grandissima esperta di cui mi sono un po' innamorata, ve lo devo dire, per i suoi consigli la sto seguendo sui social. È Serena. Ciao Serena. Ciao. Mi Nico. Piace perché tu ti sei cercato un nome bello, la sciampista. Divertente. È divertente e mi piace perché, insomma, la sciampista per tanto tempo è stata considerata un po' tipo ruota del carro, in questo caso del negozio di parrucchiere, no? Va bene, è un lavateste. In realtà è una figura fondamentale. Ruolo da sempre svilito, no? L'ultima ragazza che arrivava era destinata al lavateste, un po' come se fosse l'angolino Invece no. Invece no, è il molto riscatto importante. Della sciampista. Il rischio, rivendichiamo ogni sciampista. Senti Serena, ma di la verità, capita anche a te che dispensi milioni di consigli, tra l'altro sei seguitissima, di avere i capelli in piedi? Sì, sempre. Fatti una foto anche tu, unisciti alle sciamannate. Ma Nico, io mi faccio vedere sempre con i capelli disordinati, perché per me è molto importante portare la vericità. Quindi un messaggio veritiero. Sì. È troppo facile mostrarsi sempre perfette ed impeccabili. Non lo siamo. Però a me piacerebbe un po'. E allora, consigli della nostra amica sciampista. Al mattino i capelli non stanno da nessuna parte. Li abbiamo lavati, sembrano già sporchi. Mm-hmm. Ma li abbiamo lavati solo ieri. Poi non stanno, abbiamo fatto la piega non si vede. Ma io adesso sto facendo un elenco di problemi che sembrano più femminili, in realtà sono anche maschili. Sì. Oggi poi l'uomo è molto attento all'aspetto e alla chioma, alla capigliatura. Allora dai, noi siamo tutte orecchie, i nostri capelli hanno bisogno di te. Anzitutto, cosa facciamo alla mattina, ad esempio, quando ci svegliamo e ci guardiamo allo specchio, ci pettiniamo i capelli? Perché spesso mi sento dire: no, io non pettino tanto i capelli perché poi mi cadono, perché poi ne perdo tanti, perché poi la piega non dura. Ma in realtà no, andiamo a domare quelle che sono anche le cuticole che durante la notte si sono un po' sollevate. Ah, quindi invece che lamentarci ci diamo una mossa, prendiamo la spazzola e diciamo: capelli a me! Esatto, domatevi con uno schiocco di dita. Quindi prima di tutto veramente andiamo ad accarezzare la nostra chioma, prima con le sole mani, così da sbrogliare i nodini che si sono formati inevitabilmente durante la notte. Perché a meno che non decidiamo di dormire con una maglietta di cotone possibilmente in testa, e quindi rimangono integri perfetti durante la notte, si scompigliano. Sì, però insomma è un po' bruttino, no? Esatto. Che dici? Perché magari uno alla notte dorme, ma proprio però fare... esattamente. Quindi prima cosa, accarezziamo i nostri capelli con le mani. Sì. Non spendiamo soldi, low cost, ne siamo dotati, e accarezziamo i nostri capelli e tornano un po'. Un pochino iniziamo a disciplinarli. Ok. Per ultimare l'acconciatura è ovvio che ci dobbiamo avvalere di un accessorio, quindi di una spazzola. E lì la spazzola, la scelta della spazzola. Facciamo un piccolo test per capire già stamattina, di mattino presto, se la nostra è una spazzola che rispetta i nostri capelli. Allora, se sei riccia, io lo so che tu stai pensando: ma sei fuori di testa, che io mi spazzoli la mattina e così divento crespona. Esatto, no. Super fungo. Ma ti dirò, anche tu, Riccia, ti puoi pettinare i capelli. Perché noi abbiamo una Riccia al di là del vetro, che noi tutti invidiamo, e Valeria Bernardi, che sfoggia dei ricci da paura. Puoi iniziare a utilizzare sì le tue manine, ma anche i pettini afro, ad esempio, che presentano dei denti un po' più larghi rispetto alla spazzola normale, e quindi andare a districare un pochino la radice, così che la tua chioma diventi anche un po' più voluminosa. Ecco. Quindi provare a iniziare ad utilizzare un pettine, veramente, che non va a districare completamente perché il capello, poi quindi non fa gonfiare, esatto, ma semplicemente lo va a sollevare. E questo va bene anche per gli uomini che questo hanno... va bene anche per gli uomini, quelle belle testericce, belle, a volte un po', no? Sì, ribelline, se vogliamo. Dormiamo con il capello. Addentriamoci nel mondo delle spazzole. Proprio lì. Intanto, ogni quanto si puliscono le spazzole? Allora, la spazzola è necessaria pulirla sempre, perché si deposita il sebo. Il sebo sulla spazzola è composto da grassi, acqua, sudore, impurità, se vogliamo, quindi da tutto quello che viene assorbito dal capello, che si deposita sul cuoio capelluto, sul capello. Quindi come la spazzola smog va lavata. Come si lava? Acqua e... acqua e aceto tutta la vita. Quindi usare un sapone detergente. Sì. Poco sapone detergente, si risciacqua molto velocemente, perché io mi sto riferendo principalmente alle spazzole di legno, io le amo e sono veramente fan di queste. Si asciuga con come si chiamano, i Kleenex classici, e via. Se è di legno bisogna stare attenti che non rimangano bagnati. Una spruzzata di acqua aceto, un po' come disinfettante, anche qui low cost, perfetto, se vogliamo, asciugata a testa in giù su un panno di microfibra, e via, a posto. E la nostra spazzola è pulita, anche tutti questa i giorni è importante. Sì, è molto importante, perché sennò riandiamo a depositare. Perché ogni tanto si vedono spazzole che hanno i capelli di, no, delle stagioni precedenti, lì morti, svenuti, intrappolati tra i denti, mamma mia. Allora, altri consigli low cost per convincere le nostre chiome a farci fare bella figura e anche a stare bene? Possiamo utilizzare degli oli vegetali, anche questi non hanno un costo. Scusa, sto pensando a qualcosa. No, pensa a me alla mattina, va? Esatto, no, ma anche a tutti noi che al mattino corriamo, siamo... Esatto, anche senza dover spendere cifre folli, no? Esistono degli oli vegetali, non quelli grassosi, cioè quindi no l'olio d'oliva, non il burro di karité o l'olio di cocco, che tendono a essere molto pesanti. Immagino un capello sotto sottile, è impensabile potergli far mettere quello al mattino. Certo. Però gli oli vegetali, come l'olio di jojoba, ad esempio, in pochissime gocce applicate sulle lunghezze punte, ti fanno immediatamente avere un aspetto decisamente più bello e più sano, non solo ai ricci, ma anche alle persone che hanno capelli lisci, capelli normali, perché lisci ti danno quella impressione di capello curato. Esatto, perché senti un po', a proposito di capello curato, ma quei bei capelli lucidi che noi riusciamo ad avere solo quando andiamo dal parrucchiere, e solo da alcuni parrucchieri, quando ti e dice come mai a casa non vengono? A casa non vengono perché dal parrucchiere il capello viene lavorato. Viene lavorato con spazzole phon, e quindi lì agiscono i ponti di solfuro, si chiamano, quindi si chiudono le squame del capello e il capello risulta immediatamente più lucido. Esistono prodotti che si possono utilizzare. Eccola lì. Che vanno a parare, a ovviare a questo aspetto un po' opaco. Di solito l'acido ialuronico ha un costo un pochino più elevato rispetto magari a un olio vegetale di cui ti parlavo prima, però è molto efficace per dare immediatamente quell'effetto, in quanto involucra il capello riflettendone immediatamente la luce. È un prodotto. Non è una manovra, no, però aiuta. Bisogna anche aiutarsi con... aiuta. Senti, abbiamo parlato di cure ordinarie, dammi qualche cura straordinaria, di quelle che suggerisci tu. A me piace tantissimo l'utilizzo di aloe, soprattutto sulle persone, cioè alle persone che hanno il cuoio capelluto oleoso, che si sporca facilmente. Brava, sui capelli grassi, come diciamo noi. Esatto, no? Esatto. Un impacco pre-shampoo con dell'aloe, possibilmente un aloe che ci sia presente in grande percentuale, da tenere in posa almeno una mezz'oretta prima appunto dello shampoo, permette di detergere meglio e in modo delicato senza aggredire, perché è un idratante lenitivo il nostro cuoio capelluto, che ci ringrazierà. Senti, mi ringrazieranno, sono certa, le mamme all'ascolto, se ti faccio questa domanda, vediamo se sai rispondere. Pidocchi. Che paura, che tutti dice... terrorizzati dai pidocchi. Non fanno male all'organismo, possiamo dirlo. Sì. Quindi calma, no panic, amica. Amica mamma. Amica mamma che controlla il bambino. Deve controllare il bambino. È importante controllare la testa dei bambini per prevenire i pidocchi. È importante più che utilizzare un prodotto preventivo. Che fa poco e niente, certo. Lo dico di nuovo in milanese. Di nuovo in milanese, come disinfettarsi pensando di, no, di prevenire, di tagliarsi dopo. Esatto, ecco, esatto. Quali sono i consigli? Controlliamo molto bene le teste dei nostri bambini. Nelle zone particolari vicino alle orecchie, alla assolutamente nuca? Assolutamente sì, tutte le zone calde della testa, quindi la parte davanti, il dietro delle orecchie, quindi la zona delle tempie, il dietro delle orecchie, la zona occipitale, esatto, in fondo e al centro testa. Bisogna considerare che si attaccano veramente molto vicini alla radice del capello, perciò bisogna ispezionare la testa in maniera dettagliata, ciocchina per ciocchina, armandosi in questo caso di un pettinino a denti strettissimi, ahimè di plastica. Sì. Quindi però, è un'operazione. Però funziona. Funziona, sì, e come? Aceto. Allora ti dico una cosa, Nico, non è scientificamente provato. Brava, e quindi tu sai che io sono noiosa su questo aspetto. Grazie. Non è scientificamente provato, però io lo consiglio sempre dopo il trattamento chimico, quindi classico trattamento che si compra in farmacia, che si compra. Ci si rivolge al pediatra, al farmacista, sempre, che suggeriscono il prodotto. Sempre, sì. Un risciacquo con l'aceto male non fa, tu ma dici? Assolutamente no, né ai capelli né al cuoio capelluto, e forse farà male ai pidocchi, chi lo sa. Grazie per essere stata con noi, noi ci sentiamo a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca, poi per la nostra diretta Facebook. Buona chioma a tutti dalla vostra salutare ossessione quotidiana.